Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi vi propongo alcuni appuntamenti libreschi che vanno di pari passo con alcuni appuntamenti musicali che accompagneranno la nostra estate. Cominciato il 12 agosto e si svolge fino al 31 il festival itinerante La Notte della Taranta, è uno degli appuntamenti del Salento che si conclude il 27 agosto con il concertone di Malpignano al quale partecipa Ludovico Einaudi. Proprio la Taranta fa da colonna sonora, per così dire, al libro di Andrei Longo Lucampo di Girasoli, è pubblicato da Adelphi, 186 pagine, 16 euro. Questo è un libro caldo, estivo, travolgente, caratterizzato per la lingua insolita in cui è scritto, e cioè un impasto di dialetti meridionali, un impasto unico e originale capace di affascinare anche i lettori del nord. E ve ne voglio dare una prova e mi scuso per la pronuncia: sittato a nusgabello sopra l'upalco, lo scarparo m'aveva appena li dita della mano destra, ma li dita fuievano veloci sui tasti nel mentre che la sinistra rapeva e chiudeva lo soffietto, eccetera eccetera. Questa è proprio la descrizione dell'inizio del concerto in piazza. Ma il libro non è interessante solo per il pastiche linguistico, la storia è a sua volta un intreccio tra il drammatico e il comico o l'umoristico, in cui si incrociano le vite di due fidanzatini, quelle di due disoccupati e di un trio di ragazzi balordi, convinti di poterla sempre fare franca grazie all'autorevolezza del padre di uno dei tre. E dunque a un certo punto sfioreremo la tragedia con uno squarcio sulle tante facce del sud, che non è soltanto sole e taranta, ma anche prepotenza, volgarità, disoccupazione e spesso autentico degrado morale. Ma niente paura, il libro ha un lietissimo fine, giusto in tempo per gustarsi appunto la Taranta. Un fenomeno più recente è quello della musica in vetta, ossia dei concerti nei rifugi alpini, di cui abbiamo una testimonianza nel libro di un grande violoncellista, quello che state ascoltando, Mario Brunello. Fuori con la musica è scritto con Daniela Basso, pubblicato da Rizzoli, 180 pagine, 18 euro. Il libro è la cronaca di alcuni concerti memorabili svolti da Brunello e che ha tenuto in tutto il mondo in situazioni assai diverse, da quelle più ufficiali e solenni come il Teatro La Scala di Milano o il Teatro Marischi di Pietroburgo, ad altre assai più insolite come appunto i rifugi alpini nei quali Brunello ha eseguito Bach. Ogni capitolo quindi è dedicato a un luogo, a una musica, a un'emozione, con risultati sorprendenti e particolarmente emozionanti come quello che racconta lo stesso Brunello nel libro. Alla fine del concerto si è avvicinata una signora non vedente dicendomi: «Mi sono fatta accompagnare fin qui. Ho camminato per 2 ore, perché il mio sogno era ascoltare la musica di Bach in mezzo alle montagne. Le sue parole hanno messo in evidenza che l'ascolto deve essere accompagnato dalla disposizione ad aprire la porta che conduce la musica direttamente all'anima. La sola idea che questa signora non vedente potesse, in quel luogo e in quel momento, immaginare le montagne attraverso l'andamento della musica e del suono che cercava di disegnare lo spazio, misurare la profondità degli anfratti, l'altezza delle pareti, è stato il sigillo che mi ha convinto a proseguire la ricerca in questa direzione». Un altro musicista che potremo incontrare quest'estate è Enrico Rava, famoso jazzista, che per esempio il 17 agosto suonerà a Grado alle settimane musicali organizzate dall'Orchestra Filarmonica di Udine. Ci racconta la sua carriera Rava nel libro Incontri con musicisti straordinari, la storia del mio jazz, è pubblicato da Feltrinelli, 254 pagine, 16 euro. Rava scoprì il jazz molto giovane, anzi ancora bambino, diventa per lui subito una passione travolgente che lo porta a dedicarsi alla tromba e a formare le prime band. Nel 1960 incide il primo disco e da lì inizia una carriera che lo ha reso famoso nel mondo come uno dei migliori jazzisti italiani. Ma sentiamo appunto l'autore. Buongiorno a Enrico Rava. Buongiorno. Enrico Rava, nel suo libro lei spiega di essere stato affascinato dal jazz fin da bambino. Ecco, che cosa lo conquistò del jazz in un'età così giovane e come può conquistare oggi i più giovani ascoltatori il jazz? Beh, io non so, mi è piaciuta questa musica e soprattutto ho capito il meccanismo, cioè avevo 8 anni o 9, ho capito come funziona, a parte il fatto proprio emozionale, che ovviamente è la cosa importante, però anche il fatto di capire come funzionava questo meccanismo, che poi non è così semplice, perché vedo che c'è della gente che passa la vita senza capire come funziona. Difatti mi domandano, mi fanno sempre le domande strane, tipo: ma quando improvvisate fate quello che vi passa per la testa? Io avevo capito più o meno come funziona la cosa e la trovavo estremamente affascinante. E difatti mi ha proprio conquistato completamente. Ecco, poi questa conquista si è rafforzata nell'esperienza americana, alla quale lei dedica molte pagine del suo libro. Lì, e non soltanto lì, lei ha conosciuto tutti i grandi maestri. Beh, a parte che io l'ho conosciuta già prima di andare in America, infatti io sono stato portato in America da un grande maestro, quindi ho avuto anche questa fortuna di arrivare su quella scena praticamente insieme a un musicista americano molto rispettato nell'ambiente, per cui il fatto di suonare con lui mi ha aperto quasi tutte le porte subito di colpo. Cioè la mia gavetta è stata molto relativa, diciamo così. Ecco, lei ha avuto altre due fortune, a mio parere. La prima è stata quella di vedere New York sotto un occhio che oggi noi non possiamo sospettare. Per esempio, ci descrive com'era Soho in quegli anni, parliamo della fine degli anni 60 praticamente. Sì, Soho era niente, era un quartiere abbandonato di ex magazzini vuoti, bui, dove non c'era niente, cioè solo alcuni musicisti, dato che costava pochissimo, si affittavano un loft, ma pochi, diciamo che uno la sera se uno girava per sonno, era tutto buio, non c'era niente, però non so, Ornette Coleman aveva un loft lì, Steve Lacy ne aveva un altro, e l'altro quartiere che è cambiato completamente era Lower East Side, che era proprio un posto che più povero non si può immaginare, e lo stesso Harlem ai miei tempi era Harlem, proprio così come uno se la immagina, mentre invece adesso sta diventando un quartiere alla moda, dove sono sparite le pantegane, ovviamente, i toppacci che giravano non ci sono più, alle finestre ci sono i vetri, gli appartamenti costano abbastanza cari, sta diventando un posto alla moda. E un ruolo importante lo svolgevano anche le chiese, no? Le chiese protestanti per il jazz. C'era una chiesa che era la St. Peter Church, proprio in pieno centro, il cui parroco, questo Reverend Garcia Genzel, era il prete del jazz, diciamo così. Quindi lì si svolgevano i matrimoni dei jazzisti, i funerali dei jazzisti, per esempio Coltrane, il suo funerale è stato, John Coltrane ha avuto il funerale lì, e anche si facevano dei concerti, c'erano i famosi, si chiamavano i Jazz Vespers, che erano i vespri del jazz. Uno può pensare fosse una cosa, ma invece no, veniva al pubblico, cioè una cosa, si riempiva la chiesa di appassionati, al di là del fatto che uno fosse credente o meno, era proprio un punto di incontro dei jazzisti. Cioè è cambiata molto, devo dire meno di quanto uno potrebbe immaginare, perché poi è sempre New York così come era una volta, cioè si sono cambiati i dettagli, però l'energia, la voglia di fare, il fatto che basta voltarsi da distrarsi 3 secondi e quando uno si rimette a guardarsi intorno è cambiato tutto, uno è partito, l'altro non c'è più, quell'altro il negozio è diventato, non so, un magazzino di qualcosa, il tassista è diventato milionario, cioè l'altro è andato in California. Questa fu proprio, direi, la seconda fortuna, cioè lei capitò in mezzo alla vigilia di un grande cambiamento nel jazz, l'arrivo della New Thing, come la chiama nel suo libro. Certo, io sono arrivato che era successo da poco il fattaccio, perché sono arrivato nel 67 e il primo disco di Ornette Coleman è del 59, quindi però siccome ci è voluto molto tempo a che questa musica venisse accettata, quando sono arrivato era rigogliosa, era proprio, stava esplodendo proprio, sì, era il momento in cui si parlava praticamente solo di quello, ed era anche il momento più pericoloso, perché essendo una musica dove vengono battute le regole, no? Quindi è diventato anche un carro sul quale saltavano tutti quelli che non sapevano suonare, oltre quelli geniali. Quindi vicino non so, Albert Tyler, Cecil Taylor, né come, ma c'era tutta una serie di musicisti assolutamente inesistenti, che erano molto peggio di quelli di prima, che perlomeno suonavano bene, questo voglio dire. E comincia anche a cambiare radicalmente il pubblico, lei spiega nel suo libro, con il free jazz, ha scritto La botta finale. Sì, La botta finale, perché già era incominciato col bebop, perché fino a un attimo prima, non so, con il big band, insomma, il jazz era la musica popolare, la musica della gente, la musica popolare artistica, cioè, che è abbastanza raro, tutto sommato, è la musica per ballare. E non so, Duke Ellington, per esempio, che è uno dei più grandi, è un artista straordinario, uno dei più grandi musicisti del secolo, era uno che suonava nei college anche per le serate danzanti, per esempio, e non c'era nulla di Cab Calloway, tutto il mito del Cotton Club. E invece col bebop, che è una musica molto più complessa, sofisticata, si è persa una fetta enorme, cioè ha cessato di essere una musica popolare, ecco. Ha cominciato a fiorire anche l'immagine del jazzista maledetto, no? Del drogato che non ha una lira. Questa è un po' l'immagine che difatti si aveva anche da noi in Italia negli anni 50, questa era l'immagine, poi rinforzata da casi come quelli di Chet Baker, eccetera. Mentre invece prima era cioè queste big band, di Cab Calloway, Jimmy Lunsford, tutti questi erano uomini di successo, erano amati dal pubblico, erano rispettati dalla stampa, non erano perseguitati dalla polizia, cosa che invece coi bopper succedeva tutto il tempo, li aspettavano all'entrata o all'uscita dei locali, per gli guardavano il braccio per vedere se c'era un buco, e se c'era un buco lo poi li portavano dentro. Ci sono dei jazzisti come Art Pepper, che è stato uno dei grandi alto sassofonisti californiano, che ha passato tra una cosa e l'altra una ventina d'anni in galera, perché si faceva, per esempio, per dirne solo uno, no? Poi potrei fare un elenco che non finisce più. Ecco, il suo libro si conclude però con delle pagine di grande speranza per il futuro del jazz. Lei dice anzi che ogni tanto qualche giornalista con vocazione iettatoria annuncia l'imminente fine del jazz, lei dice non è vero. Sì, a parte che sperare non costa niente, ma a parte quello non è assolutamente vero, perché mai come oggi questa musica non è mai stata così accettata come oggi, perché difatti in Europa è nato questo mercato del jazz, che cioè è il mercato più importante, molto più che in America. Difatti, per esempio, in questi giorni sono in tournée con un gruppo di americani straordinari, giovani, fortissimi. A ogni angolo di strada a New York si trovano dei musicisti straordinari di 20, 23, 25 anni, 18, anche in Italia, in Spagna, in Germania. È chiaro che no, i grandissimi che non ci sono più, non ci sono più, quello spazio lì non è stato più riempito, ma è normale, perché è un periodo storico irripetibile, così come nessuno può rimpiazzare Leonardo da Vinci, per esempio, o Dante Alighieri, o anche per venire più vicino, nessuno può rimpiazzare Proust o Thomas Mann, no? Bene, grazie a Enrico Rava, autore dei Incontri con musicisti straordinari. Buona grazie domenica. E di Enrico Rava in autunno uscirà un nuovo disco, Tribe. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Rava ci ha parlato di Chet Baker, il trombettiere bello e maledetto, che è adesso il protagonista di un romanzo di Roberto Cotroneo, E nemmeno un rimpianto, è pubblicato da Mondadori, 170 pagine, 18 euro. Il romanzo, tra l'altro, ci riporta proprio dove siamo partiti, e cioè nel Salento, alla ricerca di un fantasma, forse, e comunque di un mito, dominato in vita dal contrasto, anzi dal contrappasso, come scrive Cotroneo, tra il caos esistenziale, il caos doloroso della vita di Baker e il suo ordine musicale, quello delle sue incisioni, che era stupefacente, limpido, chiaro. Riprendiamo il nostro viaggio musicale, questa volta con Duke Ellington, e andiamo in Sicilia con Vittorio Bongiorno, autore de Il Duca in Sicilia, pubblicato da Einaudi, 216 pagine, 17 euro. Questa è una storia tragicomica, di nuovo impastata con parole in siciliano stretto, che si svolge in un paese del palermitano, Iato, dove si ritrovano due fratelli in lite, divisi e apparentemente su quasi tutto. Uno è rimasto in paese col padre appena defunto, l'altro invece ritorna appunto da New York, dove era andato a fare proprio il jazzista. E un genio del jazz come Ellington entrerà prepotentemente nella storia. A qualcuno viene infatti in mente di invitarlo da Palermo, dove Ellington si era effettivamente recato nel 1970 per uno storico concerto. Viene invitato appunto alla festa del patrono del paese, San Calò. Ci arriverà fortunosamente per una rapida scappata, ma il suo passaggio a Iato resterà memorabile. Si era seduto al pianoforte e aveva attaccato la melodia straziante di Lotus Blossom, il brano con cui di solito chiudeva i concerti. Aveva suonato da solo, ma sembrava accompagnato da un coro di angeli che il signoruzzo aveva mandato, perché il duca era un uomo buono. La melodia la conoscevano tutti, e se qualcuno l'aveva scambiata per qualche musica da film, poco importava. Il duca era il duca, e la sua musica sarebbe stata immortale. Dice che a vederli da vicino, cosa che soprattutto a Rosario non sarebbe mai più successa, facevano paura la delicatezza del suo tocco e il magnifico rincorrersi delle sue mani sulla tastiera. Chi aveva detto che il duca non era tecnicamente dotato non capiva una minchia di musica, e quella notte ne era la dimostrazione. Ma il libro non è una fiaba, la tensione iniziale tra i fratelli è dura e rude. Il prete che fa da comprimare è una figura complessa, non manca la presenza violenta e sanguinaria della mafia, ma la vita può riservare anche delle sorprese positive, tra le quali una delle più sicure è certamente la musica. E a questo punto... Il confettino. Restiamo in ambito musicale con due libri di Roberto Piumini che hanno per protagonista un coro, il coro Arlecchino, alle prese con problemi di integrazione in due avventure, Il canto di Micaela e La voce di Sasha, illustrati da Alessandro Baronciani, pubblicati da Einaudi, 206 pagine, 202 pagine, costano ciascuno 10 euro. Torniamo alla Sicilia e scendiamo a Palermo con una guida insolita e affettuosa, quella di Alli Traina, col libro Vicoli Vicoli, guida intima ai monumenti umani, pubblicato da Flaccovio, 224 pagine, 12 euro. Palermo, lo sappiamo tutti, è una città unica nel Mediterraneo che mantiene un carattere straordinario nel suo centro storico, punteggiato da palazzi nobiliari, chiese, conventi, ma anche macerie, ruderi, vicoli che spesso sfuggono ai turisti più affannati. Eppure proprio in quel groviglio, che spesso sfocia in vivacissimi mercati, che troviamo le tante anime di Palermo, come scrive l'autrice, una per ogni quartiere storico e anche di più. Tanti cuori pulsanti nascosti tra vicoli e chiesette all'interno di piazze e mercati battono ognuno a un ritmo diverso. Non si tratta di un libro agiografico e folcloristico, ma ci serve a scoprire meglio questa straordinaria città ricca di monumenti umani, appunto, come la scuola dei pupi dei Cuticchio, famosa in tutto il mondo, che così ci viene descritta. Giacomo Cuticchio apre il suo primo teatro nel 1933 e in poco tempo diventa uno fra i pupari più stimati e conosciuti. Anche quando l'opera dei pupi entra in crisi, con l'avvento della televisione e lo spopolamento degli storici quartieri popolari verso altre di nuova fabbricazione, lui non si perde d'animo e si trasforma in puparo camminante. Inizia cioè a girare di paese in paese proponendo i suoi spettacoli in cambio di cibo e beni di prima necessità. La famiglia è interamente coinvolta. La moglie Pina dipinge splendide scenografie e ogni figlio impara e svolge un compito specifico. Il capo compagnia oggi è Mimmo, il primo figlio maschio di Giacomo, che oltre a conservare la tradizionale arte del puparo, ha aperto alla sperimentazione e allo studio di nuove forme teatrali e ha fondato una scuola per pupari e contisti che lo ha reso famoso non soltanto in Italia, ma anche all'estero. Risaliamo da Palermo verso un'area interna della Sicilia che merita di essere meglio conosciuta anche dai turisti, cioè le Madonie, dove è ambientato il romanzo di Giuseppina Torregrossa, ginecologa ormai convertitasi alla scrittura, Manna e miele, ferro e fuoco, pubblicato da Mondadori, 382 pagine, 19 euro. Questa è una storia familiare ambientata in una delle cittadine più caratteristiche della Sicilia, Castelbuono, all'interno di Cefalù, dominato ancora oggi dal castello dei baroni Ventimiglia. E proprio con questa famiglia si intreccia la vicenda della protagonista Romilda, il cui padre esercita una professione rara e importante, il raccoglitore di manna. Siamo nella prima metà dell'Ottocento e Romilda appunto sposerà il prepotente barone Francesco, assai più anziano di lei. Nella sua vicenda si rispecchieranno gli anni del dopo unità e la sua personale maturazione, che le riconquista la professione del padre e la fa accostare anche all'impegno politico. Troviamo qui una descrizione molto efficace dell'ambiente, delle vicende storiche, dell'epoca, per esempio della raffa che seguì dopo l'unità d'Italia allo smembramento delle grandi proprietà ecclesiastiche che erano state requisite dal governo. E sentiamo da questo dialogo come il barone apprende dal furbo intendente di poter appunto aumentare le proprie ricchezze. Voscenza benedica. Che cos'è sta mano morta? Ma è una storia lunga. E allora siediti e spiega. Hanno requisito le terre della chiesa. Chi? Il re. Ferdinando. Ma quale Ferdinando? Voscenza, dove campa? Che vuoi, che ti prendo a calci in culo? Parla e senza commenti. Voscenza mi deve perdonare, ma qua tutti con la storia della mano morta stanno diventando ricchi. Solo Voscenza non ne sa niente. Ferdinando non c'è più. Il re ora si chiama Vittorio Emanuele. Non senza Dio. D'accordo con Garibaldi, hanno cancellato chiese e conventi. Gli hanno tolto le terre e le danno a chi le vuole. Le vendono a chi offre di più. Asta si chiama, o incanto. Dice che hanno bisogno di soldi, che dopo Custoza il re ha le toppe al culo e perciò si vendono le terre per pagare i debiti. Ma invece di vendersi le loro cose requisiscono le proprietà della chiesa. Ladri, farabutti e senza Dio. E come si fa l'incanto? Voscenza prima si deve mettere d'accordo con tutti gli altri, che se no il prezzo diventa alto. All'asta può succedere. Se avete lavorato bene, quello che cercate sarà vostro per pochi soldi. E si può fare? Volendo. E adesso un giallo che ha il suo epicentro proprio nel giorno di Ferragosto, quando scompare Alice, su cui si troverà a indagare, ma l'indagine avrà luogo in autunno, un'ormai vecchia conoscenza degli appassionati di polizieschi italiani, l'ispettore Stucchi, creazione di Fulvio Ervas, che torna con L'amore è idrosolubile, pubblicato da Marcos e Marcos, 352 pagine, 17 euro. La formula, l'amore idrosolubile, è quello usato nel diario della ragazza scomparsa, i cui fogli compaiono fotocopiati a turbare la vita tranquilla di Treviso, denunciando le prodezze di molti maschi e paragonandoli agli insetti più strani e spesso ributtanti. Il caso è complesso, tutto sembra congiurare contro l'ispettore, l'ambiente è assai meno sereno di quanto non sembri, ma alla fine, ancora una volta, Stucchi non deluderà i suoi lettori. Noi siamo convinti che i nostri concittadini non cederanno ai metodi dittatoriali e illegali di questi golpisti. Il primo decreto della Giunta conferma il loro completo cinismo. Esso stabilisce che coloro che si rifiuteranno di obbedire ai decreti del Comitato d'Emergenza, compresi i deputati eletti dal popolo, e l'allusione è chiara, saranno arrestati. Anche se saremo sopraffatti dai carri armati, sono sicuro che l'esercito non sparerà sul suo popolo. Non sparerà. Con questo documento sonoro abbiamo cambiato completamente genere e ricordiamo un anniversario importante che cade intorno al 18 agosto, e cioè il ventennale del colpo di Stato contro Gorbaciov, che segnò l'inizio della dissoluzione dell'Unione Sovietica. Il golpe ebbe il suo punto di svolta nella difesa di Yeltsin e delle istituzioni legittime, difesa immortalata nell'arringa fatta da un carro armato, quella appunto al quale si riferisce il documento sonoro che avete ascoltato. E siamo in quel caso al 19 di agosto alle ore 12:30, quando Yeltsin sale sul carro armato di fronte alla Casa Bianca, che ospitava la sede della Repubblica Russa. Per ricostruire quelle vicende che sono state poi decisive per il corso degli eventi successivi, non soltanto tanto in Russia, segnalo il libro dello storico Marcello Flores, La fine del comunismo, pubblicato da Bruno Mondadori, 190 pagine, 18 euro. Come scrive l'autore, fu proprio il fallimento di quel golpe che rese evidente che l'orizzonte del comunismo stava scomparendo dalla storia e quindi diventò unanime, aggiunge, la consapevolezza che si stava aprendo una nuova epoca. Il processo che seguì a quegli eventi è stato tutt'altro che lineare, proprio la confusione della caduta del comunismo contribuisce a spiegare le convulsioni successive. E questo ci aiuta a fare il libro di Flores, appunto, a ricostruire brevemente ma efficacemente che cosa successe in quel paio d'anni a partire dall'Annus Mirabilis, il 1989, quando crolla il muro di Berlino, dando il là al collasso dell'intero sistema comunista. Esemplare la costruzione del libro. Prima troviamo i fatti, che si concludono appunto con il golpe del 1991 che fece dissolvere, anzi autodissolvere, come scrive Flores, l'Unione Sovietica. Poi l'analisi, svolta attraverso l'esame dei fattori che produssero la crisi, tra i quali particolare attenzione dedicata a Solidarnosc e alla repressione polacca, e naturalmente il ruolo di Gorbaciov, il leader, scrive Flores, intenzionato a compiere una rivoluzione dall'alto. E poi, dopo i fatti e l'analisi, l'interpretazione, basata sulla convinzione che il fallimento dell'Unione Sovietica non sia una conseguenza della debolezza congenita del modello ideologico che la sorreggeva. Piuttosto Flores parla di collasso sistemico che fu dovuto alla stagnazione economica da un lato e alla sfida militare che era stata lanciata dal presidente Reagan con lo scudo stellare, due elementi ai quali si affiancò naturalmente la scelta di Gorbaciov di rinunciare all'uso della forza per arginare il dissenso. E con questo ringrazio Guido Scotti in redazione e Pietro Lacorte in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete ascoltare sempre questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica, buon Ferragosto e vi do appuntamento la settimana prossima.